giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Indignazione, sconcerto, incredulità, le reazioni che si sono rincorse fra Trieste e Roma ieri alla notizia della decisione di Wärtsilä di chiudere la produzione di motori navali. 450 i posti a rischio, la metà della forza lavoro complessiva dello stabilimento di San Dorligo. Assemblea dinanzi allo stabilimento, incontro col prefetto, la solidarietà dinanzi ai cancelli della fabbrica, portata dall'assessore regionale al lavoro Rosolene e dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti. Dopo la proclamazione immediata dello sciopero ieri, ora proseguono forme di presidio volte ad impedire l'uscita di macchinari dal sito industriale. Da destra a sinistra, nel giorno della crisi di governo, la politica a Trieste si ritrova unita a difesa dello stabilimento Wärtsilä e dei suoi posti di lavoro. Reazioni unanimi dal mondo istituzionale, sindacale e imprenditoriale. Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Ravascletto, ha perso la vita un uomo di 77 anni, Mario Da Pozzo, che stava manovrando una pala meccanica che si è rovesciata travolgendolo. Maltrattamenti e abbandono, queste le accuse per 13 persone, di cui 4 agli arresti domiciliari, della residenza per anziani non autosufficienti Le Meridiane di Aiello del Friuli. È stata la direttrice della casa di riposo a notare alcune anomalie e a segnalarle ai carabinieri del NAS. Si apre stamane davanti al Tribunale di Trieste il primo processo per le aggressioni subite dai giornalisti nel corso delle manifestazioni No Vax e No Green Pass dell'autunno scorso nel capoluogo regionale. Valvole e rubinetti per fermare la fuoriuscita incontrollata di acqua dai pozzi artesiani. La misura è stata decisa ieri da uno dei tavoli tecnici che si stanno svolgendo per far fronte alla siccità. Attivato un servizio straordinario di pattugliamento dei boschi a causa del grande caldo di queste settimane per la forestale del Friuli Venezia Giulia, sorvegliato speciale e soprattutto il Carso Triestino. Pochi giorni fa un incendio era scoppiato proprio a San Dorligo della Valle. Concerti, quanto mi era mancata questa maledetta felicità, canta Alessandra Amoroso, stasera ospite a Lignano ad un concerto con tanti altri grandi artisti. E sempre stasera musica anni 70 e 80 al Castello di San Giusto per la Ceghedaccio Symphony Orchestra, che tra pochi giorni si esibirà anche a Milano. Venerdì 15 luglio 2022, sono le 7:20 minuti e 55 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Anna Vitaliani e Antonio Cagliazza. Vediamo subito com'è il tempo. Il cielo è sereno sulla regione ed ecco le temperature registrate poco fa. A Trieste 23 gradi e mezzo, la temperatura del mare di 25 gradi. A Pordenone 22 gradi, a Udine 22, a Gorizia 19 e mezzo. A Tolmezzo 19, a Sappada 17, a Tarvisio 17 e mezzo, a Forni di Sopra 16, Piancavallo 14 e mezzo, sul Monte Lussari 18, sul Monte Zoncolan 16, a Lignano 23 gradi, a Grado 22 e mezzo e la temperatura del mare di 25 gradi. Le previsioni dell'ARPA: oggi al mattino bel tempo, nel pomeriggio ancora a prevalenza di bel tempo sulle zone pianeggianti, con caldo in pianura e brezza più fresca sulla costa, mentre sui monti avremo nuvolosità variabile con probabili rovesci locali temporali che dalla sera potrebbero interessare anche la pianura. Dalla sera soffierà bora moderata che manterrà temperature elevate su pianura e costa. Le prime indiscrezioni avevano cominciato a circolare mercoledì. Ieri la conferma ufficiale da parte dell'azienda. Wärtsilä intende chiudere la produzione di motori marini a quattro tempi nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra e trasferirla nel nuovo sito produttivo finlandese di Vaasa. A Trieste dunque resterebbe solo la parte commerciale e di assistenza, il service. 450 i lavoratori a rischio, una metà di tutti i dipendenti attualmente impiegati a San Dorligo. Durissime le reazioni da istituzioni, politica, sindacato e dallo stesso mondo imprenditoriale. Si è detto sorpreso e irritato il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, incredulo e sdegnato il presidente della regione Federica. La cronaca di una giornata drammatica. L'annuncio ai rappresentanti di fabbrica di Varzi, la prima delle 9 di mattina, coglie tutti di sorpresa per tempi e modi. Via l'intera produzione di motori per navi e centrali elettriche da Trieste. Licenziamento per 450 addetti, la metà dei lavoratori del sito, senza considerare all'incirca altri 400 dell'indotto. L'azienda finlandese sposta la produzione in patria, in una nuova fabbrica. Inizia uno sciopero a cui aderiscono anche tanti colletti bianchi, non toccati dal piano di tagli. Non ha senso di esistere questo stabilimento senza la produzione, quindi siamo tutti coinvolti. Ho un mutuo, i figli da far studiare fuori Trieste. Io penso che sarà una lotta lunga, ed è giusto che sia una lotta lunga, sì. La rabbia monta, ma la protesta rimane civile e si trasferisce davanti al Varco Merci. La lotta dei sindacati avrà l'obiettivo di minimizzare l'impatto economico per i lavoratori e bloccare l'uscita dei macchinari. Corale la condanna delle istituzioni, il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti si dice irritato e convoca i vertici aziendali che negavano anche a lui l'esistenza di un simile piano. Esprime sdegno e incredulità il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ricorda i contributi pubblici ricevuti dall'azienda negli anni e chiede l'interruzione dei rapporti tra comparto produttivo italiano e Varzila. Il messaggio indirettamente è rivolto a Fincantieri, uno dei principali clienti. A meno che dalla Finlandia non ci ripensino, l'assessora regionale al lavoro, Alessia Rosalén, invita la società a ritirare la procedura. Credo che adesso, per iniziare a discutere in maniera corretta, e la presenza anche di Confindustria qui lo dimostra, sia innanzitutto quello di ritirare la procedura avviata da Varzila. Amarezza e rabbia tra i rappresentanti sindacali, a cui l'azienda ha nascosto le sue intenzioni fino alla sera prima. Giacomo Viola, RSU Varzila Wilm Will. Hanno smentito categoricamente, dicendoci addirittura che da dove raccogliamo ed inventiamo noi queste notizie. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E dunque ecco le reazioni. In appoggio ai lavoratori fuori dai cancelli si muovono assieme destra e sinistra e sindacati e imprenditori. Non si possono licenziare dall'oggi al domani oltre 450 persone senza dare alcuna spiegazione plausibile, dice il ministro triestino Patuanelli, capo delegazione nel governo nazionale per i 5 Stelle. Occorre intervenire subito. Serracchiani per il PD chiede un intervento immediato del governo, anche cercando soluzioni industriali alternative. Per Rosato di Italia Viva bisogna trovare il modo, con o senza Varzila, di conservare la produzione dei motori nello stabilimento triestino. E per Giacomelli di Fratelli d'Italia, Varzila non può e non deve abbandonare i lavoratori dopo aver garantito a parole la continuità occupazionale, mentre Tondo di Noi con l'Italia preannuncia un'interrogazione per capire cosa farà il governo per scongiurare l'ipotesi di delocalizzare la produzione. Questi probabilmente la stanno tirando per prendere probabilmente soldi del PNR, questa è la mia opinione. Adesso Trieste chiede che la città affermi con una voce sola che senza industria non c'è futuro. Inaccettabili decisioni e metodo per progetto FVG e anche per il patto per l'autonomia. Rifondazione Comunista denuncia l'ennesimo attacco ai diritti, mentre per Sinistra Italiana la competitività non si può migliorare sulle spalle dei lavoratori. Ci impegneremo con la regione con la quale siamo in contatto, eravamo assieme all'assessore Rosolin, ho parlato questa mattina lungamente col presidente Fedriga, anche ieri sera, e saremo uniti nel difendere questo asset produttivo di Trieste. Lo stesso segno hanno i comunicati sindacali. L'azienda ha tradito Trieste, secondo la CGIL. La UIL parla di un'operazione di sciacallaggio di una multinazionale che qui ha percepito notevoli incentivi. La CISL parla di una delocalizzazione a tradimento alle spalle dei sindacati e di tutto il territorio. Ormai sempre più aziende straniere prendono tutto quello che possono da lavoratori e Stato, lasciando il deserto dietro di sé, commenta l'UGL, mentre l'Unione Sindacale di Base dice che Varzila ha mentito a tutti e che la politica locale e nazionale deve intervenire immediatamente. Andrea Vardanega, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: incidente mortale ieri pomeriggio a Casera Tarandonalta, nel comune di Ravascletto, dove ha perso la vita Mario da Pozzo, 77 anni, cognato del sindaco di Ravascletto Hermes De Crignis. È rimasto schiacciato da una ruspa in movimento che lui stesso stava guidando e che si è rovesciata. Titolare di una ditta edile assieme ai figli, da Pozzo stava facendo dei lavori di ripristino sulla panoramica delle vette. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, il soccorso alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco. Maltrattamenti ed abbandono sono i capi d'accusa per i quali sono indagate 13 persone, di cui 4 finite agli arresti domiciliari della residenza per persone anziane non autosufficienti, le Meridiane di Aiello del Friuli. È stata la direttrice della casa di riposo, Diana Sokolovskaya, dipendente della struttura del gruppo Sereni Orizzonti, a notare alcune anomalie e a segnalarle ai carabinieri del NAS di Udine, che hanno subito avviato le indagini. 7 persone residenti tra le province di Udine e di Gorizia sono state sottoposte ad una serie di misure cautelari, mentre gli indagati sono 13, 40 gli operatori impiegati nella struttura che accoglie fino a 118 anziani. Le indagini, fatte utilizzando anche le telecamere, hanno documentato gravi episodi di minacce, insulti, abbandono, in particolare di 8 anziani più non autosufficienti. Le condotte dei 7 indagati, sui quali sono state disposte misure cautelari, hanno dimostrato, come scritto dagli stessi carabinieri nella nota stampa, una connotazione di particolare gravità in relazione allo stato di profondo deficit cognitivo e fisico degli ospiti. Si apre stamattina alle 9.15 al Tribunale di Trieste il primo processo per le minacce e le aggressioni subite dai giornalisti nel corso delle manifestazioni Novax e No Green Pass dell'autunno scorso nel capoluogo regionale. Ordine dei giornalisti e Assostampa saranno a fianco del giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti, chiedendo la costituzione di parte civile. Le intimidazioni, si legge in una nota, e in alcuni casi le aggressioni fisiche subite dai colleghi sono state il frutto di un clima generalizzato di avversione nei confronti dei giornalisti, divenuti dall'autunno scorso il bersaglio preferito dei manifestanti. Gli affollati cortei che si sono svolti a Trieste hanno avuto spesso come obiettivo la sede della RAI e quella del quotidiano Il Piccolo, sotto le quali si sono registrati lanci di bottiglie e cori offensivi. Sono queste le ragioni per cui l'Ordine dei giornalisti e l'Assostampa del Friuli Venezia Giulia hanno deciso di chiedere la costituzione di parte civile in tutti i procedimenti giudiziari avviati in seguito alle denunce dei giornalisti coinvolti. Se tale richiesta sarà accolta, l'eventuale risarcimento stabilito dal Tribunale sarà devoluto in beneficenza. Impennata nelle prenotazioni della quarta dose tra mercoledì e ieri, se a mezzogiorno di mercoledì le richieste si erano fermate a 393, 24 ore dopo il numero era salito a 2877, pari all'80% del totale. Il restante 20% è relativo a prima, seconda e terza dose. Potenzialmente la platea in Friuli Venezia Giulia, a cui dovrebbe essere somministrata la quarta dose di circa 400.000 persone, numero dal quale vengono detratti coloro che hanno contratto il Covid negli ultimi 120 giorni e coloro ai quali negli ultimi 120 giorni è stata somministrata la terza dose. Restano dunque approssimativamente 300.000 persone. I vaccini che saranno somministrati sono Moderna o Pfizer, mentre ai soggetti fragili soltanto Pfizer. Parliamo della siccità. Non una chiusura dei pozzi artesiani, ma la riduzione della fuoriuscita incontrollata di acqua. L'esito del tavolo tecnico tenuto ieri a Udine è stata l'indicazione di installare valvole e rubinetti alle bocche delle fonti molto diffuse nella bassa friulana. Un documento molto semplice che dia indicazioni pragmatiche su che valvola o che riduttore comprare e installare per ridurre il prelievo di acqua di falda dei pozzi artesiani. Interventi poco costosi alla portata di tutti che verranno sovvenzionati. Questo è l'obiettivo che si è data la Regione sedendosi al tavolo tecnico assieme ai gestori del servizio idrico, comuni ed esperti. Paolo De Alti, del Servizio Gestione Risorse Idriche. Non c'è nessuna volontà ovviamente di chiuderli i pozzi, non c'è nessuna volontà di limitare la fruizione dell'acqua da parte dei cittadini, ma chiaramente bisogna diminuire gli sprechi. Ma se la montagna partorirà un documento previsto entro poche settimane, non ci si poteva pensare prima invece che attendere l'emergenza. Vero, ma l'argomento è sempre stato scottante politicamente, sottolineano in molti, a tutti i livelli. Dalla prossima riunione saranno invitati anche i comitati in difesa delle fontane. I sindaci della bassa pianura friulana attendono ora dalla regione dati tecnici per capire se ci saranno conseguenze alla riduzione del flusso dei pozzi artesiani. Nei paesi dove non ci sono acquedotti e tutti prelevano acqua dalla falda, se i pozzi dovessero ostruirsi, il cittadino potrebbe fare causa. Il prelievo d'acqua di falda dei quasi 50.000 pozzi domestici è pari a tutti gli altri prelievi di acqua in questa regione. Luca Zini, idrogeologo dell'Università di Trieste. Sono acque di ottima qualità, infiltratesi oltre 20.000 anni fa in alcuni casi, quando non esisteva l'inquinamento, quindi sono perfettamente pure. ma sono una risorsa non isolata. Le acque artesiane sono in comunicazione con l'alta pianura e con le risorgive. Un loro sovrasfruttamento va ad incidere sulla portata delle risorgive e va ad incidere sui livelli dell'alta pianura. Quindi bisogna cercare il più possibile di preservarle per mantenere integrato tutto il sistema idrogeologico del Friuli Venezia Giulia. San Giorgio di Nogaro, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E le alte temperature, il vento che si alza, un mix micidiale per gli incendi boschivi, specie quest'anno, con la terra mai tanto arida. Con Flavio Cimenti, ispettore del Corpo Forestale Regionale, abbiamo fatto il punto sugli interventi preventivi messi in campo. Sì, sicuramente ci troviamo di fronte a quella che, nonostante siamo solo praticamente a metà luglio, siamo già alla quarta ondata di caldo. Questo sicuramente in questa fase inizia a preoccupare, perché in alcune aree in particolare c'è anche un periodo prolungato di assenza di precipitazioni, come ad esempio nell'area carsica, per cui adesso la vegetazione risulta, specie in quell'area, disidratata, per cui è possibile, assieme alla combinazione delle alte temperature, la bassa umidità e la presenza di vento, che ci siano tutte le condizioni perché si possano verificare degli incendi boschivi. Qual è l'attività che fate preventiva? Ecco, in questo momento su 5 aree territoriali, per l'area montana, l'area, quindi l'ispettorato di Tolmezzo, per l'area pordenonese, l'area udinese, l'area goriziana e triestina, abbiamo attivato il servizio pattugliamento antincendio, che è un servizio messo in atto dal Corpo Forestale proprio specifico per il pattugliamento, il primo intervento, e che si aggiunge al servizio ordinario che viene fatto dal personale delle stazioni. Oltre a questo, specie nell'area carsica, in stretta collaborazione con la protezione civile della regione, sono stati anche attivati dei turni da parte delle squadre comunali e delle associazioni della protezione civile della regione. A livello nazionale si è parlato di un più 157% di incendi. In questa regione gli incendi sono stati più frequenti rispetto agli altri anni finora? Attualmente no, la nostra regione è stata interessata anche da precipitazioni che, seppur di tipo temporalesco, quindi che non riescono a calmierare la siccità, in qualche modo hanno permesso l'idratazione della vegetazione. Dopo le ripetute aggressioni a danno degli autisti del trasporto pubblico locale registrate nei giorni scorsi fra Trieste, Monfalcone, Duino e Pordenone, sono intervenuti in modo unitario i sindacati di categoria. Con una nota stampa si sono detti stupiti che la regione e l'azienda regionale Scarl non li abbiano ancora convocati per chiarire quanto accaduto. Le parti sociali, in un tavolo prefettizio, hanno chiesto nuove misure di sicurezza per il personale del servizio pubblico. La cabina di guida chiusa, possibili accessi a terzi, l'installazione di sistemi di chiamata alle forze dell'ordine, il DASPO dai mezzi a tutti i soggetti che aggrediscono verbalmente e fisicamente il personale viaggiante. La Corte d'Appello di Trieste ha accolto l'appello di un ex lavoratore portuale, Claudio Visentin, vittima dell'amianto, che ha contratto infermità asbesto correlate per il lavoro svolto nel porto di Trieste tra il 1970 e il 1981. Visentin, 71 anni, si è ammalato riportando una lesione psicobiologica e disturbi dell'adattamento. Ne dà notizia l'Osservatorio Nazionale Amianto. L'uomo, che si occupava di facchinaggio, è stato esposto a polveri e fibre di amianto, spesso movimentava sacchi di juta contenenti asbesto e manipolava materiali in amianto. L'INAIL, aggiunge l'osservatorio, nel 2015 aveva accertato la malattia professionale con una menomazione del 3%, negando ogni indennizzo perché sotto il 6% di postumi invalidanti. Il Tribunale di Trieste nel 2021 non aveva riconosciuto il disturbo psichiatrico. Ora la Corte di Appello ha qualificato un danno complessivo liquidato di 12.600 euro, una sentenza, commenta l'osservatorio, che apre le porte ad una nuova frontiera del danno e afferma che deve essere risarcito anche il danno psichico, oltre al danno morale. Si scaldano i motori per la nuova edizione del Festival del Coraggio. Questa quinta edizione, che si terrà ad ottobre, ottobre viene anticipata da una serie di anteprime fatte di presentazioni di libri, passeggiate e proiezioni. E allora questa sera alle 20:30 nel Giardino dei Diritti di Cervignano sarà presentato il libro I Cancellati. Il romanzo narra quello che è successo realmente a 25.671 cittadini che il 26 febbraio del 1992 il Ministero dell'Interno della Slovenia ha cancellato dai sistemi informatici. Rispetto al passato è senza dubbio aumentata la sensibilità nei confronti degli animali, ma non abbastanza da chiudere la piaga degli abbandoni estivi, quando purtroppo in diverse circostanze ancora vengono percepiti come un intralcio alla voglia di andare in vacanza. Il gattile di Trieste è una soluzione anche per chi non sa a chi affidare il gatto per il periodo delle ferie. Buona convivenza allora con tutti, grazie. Ecco, questa è un'altra storia, è stata trovata una gatta in strada e la signora ce l'ha portata qui perché aveva altri gatti. Squilla in continuazione il telefono del gattile di Via della Fontana a Trieste. Soprattutto con la bella stagione aumentano le segnalazioni di gatti abbandonati. Gli oltre 100 gatti qui ospitati hanno storie diverse alle spalle. Alcuni hanno il padrone in carcere, altri in cimitero, altri hanno involontariamente scatenato un'allergia nei loro padroncini e sono stati allontanati. Carmen Berlam, volontaria del gattile. È una di quelle gatte che purtroppo andiamo a prendere per raccogliere i cuccioli, perché erano cuccioli indesiderati. Quando prendiamo anche la mamma, poi non la vogliono più di ritorno. Perciò la gattina è molto buona e le cercheremo un'adozione. Ci battiamo molto per la sterilizzazione. La città non è adatta al randagismo né per cani né per gatti, perché succede sempre anche ogni estate che poi i cuccioli finiscono nei motori delle macchine. Perciò difficoltà a prenderli, a recuperarli, gattini che finiscono anche, che si perdono perché a un certo punto la mamma li abbandona perché va di nuovo in calore. I gatti accuditi delle colonie feline registrate dal comune vengono sterilizzati gratuitamente in gattile. Ci sono anche altre due cliniche che fanno gratuitamente questa sterilizzazione del comune. I gatti logicamente dei privati no, il gatto privato va portato in una clinica, in un ambulatorio veterinario. Giorgina Vecchiato, volontaria del gattile. Lei è Rosina, probabilmente voi state investita o non si sa perché adesso è cieca, praticamente non vede più, no? E comunque è molto anziana come gatta. Ma c'è anche chi si rivolge al gattile per adottare e allargare così la nuova famiglia, come questa ragazza che ne ha presi due. Perché abbiamo messo collarino perché hanno il loro libretto con i bacini, okay. Va bene? Ecco, questo è uno, dentro, buonissimo, vedi che è buono. E adesso prendiamo dietro che mangi, vedi? Sì, sì, sì. Ecco, anche lei c'ha il... Ma pare che sia lì, c'ha detto. Ah, perché viene a prendere scatolette, proprio oggi, tutti oggi. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Un viaggio lungo la musica anni 70 e 80, quello che parte stasera alle 21 dal Castello di San Giusto di Trieste per poi arrivare per la prima volta al Castello Sforzesco di Milano giovedì prossimo. La Ceghedaccio Symphony Orchestra, nata da un'idea di Renato e Carlo Pontoni, è composta da una trentina di elementi diretti dal maestro Denis Feletto, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. I biglietti si possono acquistare fino all'ultimo anche al botteghino questa sera. E allora, sulle note degli ABBA, abbiamo raggiunto il DJ Renato Pontoni, il papà del Ceghedaccio. Questa sera faremo veramente uno spettacolo, secondo me, unico nel suo genere, uno spettacolo che pensiamo possa soddisfare tutto il pubblico che verrà al Castello di San Giusto, perché abbiamo aspettato tanto e ce la metteremo tutta. Dopo due anni a maggio avete rifatto anche il Ceghedaccio in presenza. Che anni sono stati questi per voi e cosa significa riprendere a fare musica dal vivo? Beh, allora, sono stati anni durissimi. Siamo ripartiti e adesso speriamo che sia veramente finita. E far la musica dal vivo è tanta roba perché il pubblico ne ha bisogno e tutti gli operatori del settore ne hanno bisogno, compresi noi. Però il nostro spettacolo è davvero eccezionale, posso dire la verità, ci abbiamo messo il cuore, la passione, è tutto per fare uno spettacolo degno di un palcoscenico come San Giusto. Gli eventi in presenza stanno avendo davvero tanto successo, abbiamo visto Giovanotti a Lignano, in Maneskin, non solo. Perché c'è bisogno di tutto questo? Ma perché dopo 2 anni di chiusura totale, sai, la gente ha bisogno di uscire, ha bisogno di parlare, ha bisogno di stare insieme, ha bisogno di stringersi, ha bisogno di commuoversi, ha bisogno di emozionarsi. Per la prima volta la Ceghedaccio Symphony Orchestra arriva in uno dei palchi più ambiti d'Italia, il Castello Sforzesco di Milano. Cosa significa per voi? Toccare il cielo con un dito dopo Trieste, andare giovedì 21 al Castello Sforzesco è una cosa eccezionale, ci è capitata. Tra l'altro siamo stati selezionati dal comune stesso come uno dei 10 migliori eventi dell'estate milanese, quindi per noi, come dicevo, è tanta soddisfazione. A Gorizia, Palazzo Lantieri alle 21, un concerto del progetto Beethoven, la rassegna musicale estiva organizzata dalla Società dei Concerti di Trieste. In scena la soprano Valentina Corò. Per il progetto Beethoven è attivo il servizio navetta, il Pullman Beethoven, da Trieste e ritorno. Durante il viaggio di andata il pubblico potrà ascoltare la prolusione del concerto. Partenza da Trieste, piazza Oberdan alle 19.30 circa, rientro a Trieste alle 23 circa. Grande musica questa sera in piazza Marcello d'Olivo a Lignano Sabbia d'Oro. Mi sveglio ancora truccata. E ci sarà Alessandra Amoroso e la stiamo ascoltando nel suo nuovissimo singolo Camera 209. Quanto mi era mancata questa maledetta felicità, canta l'artista. Ritrovarsi, riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza che non significano superficialità ma consentono di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo, ha dichiarato Alessandra. Classe 1986, salentina, oggi tra le voci più amate e seguite della musica italiana. Ma questa sera all'inizio con lei ci sarà anche Annalisa, D'Argent Amico, Baby K, Fred De Palma, Rocco Hunt, H7 e molti altri. Questa maledetta felicità. E siamo allo sport, partiamo con due notizie di calciomercato riguardanti entrambe il Pordenone. La squadra neroverde ha ingaggiato il portiere Marco Festa, classe 92, arriva dal Crotone, ha firmato un contratto di 2 anni, scadenza giugno 2024. Il Pordenone ha poi comunicato di aver ceduto al Benevento il difensore Hamza El Kawakibi. Al via i campionati mondiali di scherma, il Cairo da oggi al 23 luglio, i commissari tecnici di Fioretto, Sciabola e Spada hanno riconfermato in blocco gli azzurri saliti in pedana ad Antalya per i campionati europei. Tra i 25 convocati ci sarà spazio quindi anche per le friulane Mara Navarria e Michela Battiston. La spadista classe 85 di Carlino, Navarria in forza al gruppo sportivo dell'esercito e campionessa del mondo 2018, salirà in pedana già oggi per le fasi preliminari della prova individuale. Riserva in patria della spada femminile la friulana Giulia Rizzi, pronta a volare in Egitto da Parigi dove vive. Anche Michela Battiston arriva al mondiale forte dell'argento a squadre, conquistato al suo primo europeo assoluto. Eccoci alla rassegna stampa. Noi traditi è il titolo di prima pagina del Piccolo di Trieste su una foto di lavoratori della Varzila. Stoppa la produzione a Trieste, 450 posti in bilico, proteste e solidarietà trasversale. Il governo in campo, dice il sommario che sta accanto al titoletto sulla crisi di governo, sul calo subito dalla borsa e sul Quirinale aperto all'ipotesi di elezioni anticipate. Le prime 5 pagine del giornale sono dedicate allo stop alla produzione a Sant'Orligo, deciso dal colosso finlandese. E poi a pagina 6, su una foto della ex principe coi cancelli chiusi, il titolo «Una provincia senza fabbrica». Quindi, nella pagina successiva, un'intervista allo storico ed economista Giulio Sapelli. «Se manca industria, non c'è civilizzazione, resta solo movida», è il titolo. Vediamo l'apertura delle pagine di Trieste sul bus senza il biglietto, record di multe sulle linee 6 e 36. Trieste Trasporti schiera più controllori. Il Messaggero Veneto dedica la fotonotizia di centropagina alla crisi di governo, ma poi apre con la cronaca locale. Anziani vessati in casa di riposo, 13 indagati, fatti denunciati dalla direttrice di un istituto di Aiello. Ingiurie e minacce, 4 operatori sono ai domiciliari. E poi richiami di cronaca in prima pagina, la morte dell'impresario di Ravascletto e l'ordinanza della neosindaca di Lignano per la chiusura di una parte di spiaggia di notte per evitare le risse, come quella accaduta la scorsa settimana quando furono coinvolti circa 60 giovani. Di spalla l'economia con un'indagine della Confapi, anche le PMI senza personale, non c'è ricambio per i tecnici. Taglio basso la cultura con il conto alla rovescia per il Festival Internazionale di Cividale che aprirà il 22 luglio. Quest'anno Mittelfest affronta gli imprevisti, è il titolo. Capocronaca apre con i vaccini, quarta dose di vaccino per over 60 tre giorni la settimana all'ente fiera, al via martedì alle 13.30 fino alle 17.30, servizio attivato anche negli ospedali di Tolmezzo e Palmanova. Sul Gazzettino, nelle pagine economiche nazionali, il caso della Wärtsilä che chiude a Trieste, licenza 450 lavoratori. L'apertura del Gazzettino edizione del Friuli è dedicata invece alla siccità. Premi a chi consuma meno acqua. La regione sceglie di abbandonare le multe e poi altri 7 giorni di caldo normale. Ma poi ci sarà l'emergenza. Prima pagina del Piccolo, edizione isontina, anche graficamente molto differente dall'edizione triestina. A sinistra la foto verticale di Mario Draghi col titolo «Mattarella respinge le dimissioni». A destra il titolo più grande ci porta a Monfalcone. Gestione rifiuti nel cantiere, accuse prescritte. Caso Fincantieri e Pulitecnica. 7 anni di processo e il giudice conferma nessun illecito. Andiamo all'interno, qui il titolo è 7 anni di processo buttati, scattata la prescrizione. Il giudice ha comunque affermato che l'illecito amministrativo non c'era. Il sequestro di alcune aree disposto dalla procura determinò l'interruzione dell'attività. Si tratta di una complessa vicenda che cominciò nel 2013. L'apertura delle pagine di Gorizia è sul primo consiglio comunale dopo le elezioni. Un avvio con sorpresa perché uno dei consiglieri, Pierpaolo Martina, ha annunciato le dimissioni per incompatibilità col suo ruolo di dirigente regionale. L'elezione di un altro consigliere, Paolo Lazzeri, resterebbe sub iudice perché le sue dimissioni da presidente del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario sarebbero state tardive. Vediamo ora il Messaggero di Pordenone che apre con l'aumento delle tariffe idrogea dopo lo stop Covid. Alessandro Ciriani dice scelta inevitabile per fare nuovi investimenti. Si parte da un rincaro del 2,5%, nel 2023 sarà del 3,5%. E poi con richiamo in prima pagina al dibattito in consiglio sull'omotransfobia. Il consiglio si spacca, non metterò mai panchine arcobaleno, così il sindaco Ciriani. In questa città nessuno deve essere etichettato. E poi il PD, da noi stimolo per arrivare ad una norma condivisa. La cronaca con un fatto accaduto ieri in tarda serata, guida contromano nel centro affollato, paura tra la gente, un'auto è stata identificata, 2 giovani a bordo. Sul Gazzettino di Pordenone la fotonotizia di centropagina con l'arrivo di 5 nuove ambulanze a Pordenone che sostituiranno i vecchi mezzi obsoleti. E poi la città che cambia volto, nuovi palazzi e negozi in centro, si trasforma anche Corso Garibaldi. Una storia di miti, divertente e poetica sullo sfondo del patriarcato di Aquileia, nello spettacolo Malacarne, la ballata dell'amore e del potere, il nuovo appuntamento della rassegna itinerante Palchi nei Parchi, ideata dal Servizio Foreste e Corpo Forestale della Regione, sotto la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Di scena alle 20.30 a Bosco Romagno di Cividale del Friuli. Questa sera il gran finale dell'estate di Suns Europe, il Festival delle Arti in Lingua Minorizzata, si terrà alle 21 al Teatrone in Piazza Libertà a Udine. A salire sul palco saranno Sara Zozzaia assieme ad un folto gruppo di artisti friulani che porteranno nel cuore del capoluogo il loro concerto spettacolo in una trascinante kermesse folk rock. e stasera alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso di Cormons le ultime sette parole di Cristo sulla croce, scritta alla fine del Settecento in occasione della cerimonia del Venerdì Santo nella chiesa di Santa Cueva di Cadice in Spagna, e l'intensa composizione di Haydn ispirata all'insieme delle parole che Gesù pronunciò sulla croce, come riportate nei racconti della Passione dei Quattro Vangeli. L'esecuzione sarà preceduta da una prolusione del critico musicale Sandro Cappelletto su brani tratti da testi sacri e dalle opere del premio Nobel per la letteratura José de Saramago. Fish Very Good ritorna a Trieste da oggi a domenica, weekend all'insegna del prodotto ittico locale in Ponte Rosso, con la valorizzazione dei luoghi, delle attività di pesca e acquacoltura. Si potranno scoprire le nuove specie presenti nei nostri mari, conoscere i pescatori per capire i loro segreti ed imparare le tecniche di preparazione del pesce. Sarà anche l'occasione per vivere in modalità virtuale alcune esperienze turistiche legate al mare. Pink Noise Music è la rassegna dedicata alle donne musiciste e compositrici, protagoniste femminili della musica. Stasera alle 21.30 all'ex lavatoio di San Giacomo a Trieste si esibirà al pianoforte Svetlina Bojagieva. Alle 20.30 nella sala convegni di Cavasso Nuovo verrà presentato il libro Prime battaglie antifasciste, le barricate di Torri di Pordenone del 1921. Per il Festival Internazionale di Musica e Territori nei suoni dei luoghi, stasera nell'antica chiesa di San Silvestro Papa di Precenicco, alle 21 in scena il duo di arpe formato da Irene Pauletto e Anna Talbò. A Trieste, aperitivo con l'arte, ritrovo alle 19 al posteggio Le Rose d'Inverno e partenza per il trekking guidato sul Monte Stena, dove si assisterà all'esibizione al violoncello di Clara Di Giusta del Conservatorio Tartini. Qui la degustazione dei vini regionali e l'evento Charlie Chaplin, storia di un vagabondo che parlò al mondo. Uno sguardo ai programmi radiofonici della nostra sede. Pochi minuti dopo le 11 la trasmissione in friulano parlerà di Terre Alte in Friuli Venezia Giulia e di come la montagna possa attirare nuovi abitanti. Alle 11.20 un tranquillo weekend da paura estate. Noi ringraziamo Eugenio Giuffrida e Tommaso Vinoni per l'assistenza tecnica, Manuel Bussani che ha collaborato in redazione, e alle 7.54 minuti e 15 secondi chiudiamo questa edizione dandovi appuntamento alle 11 su questa frequenza per il flash e quindi poi all'edizione delle 12.30. Grazie della cortese attenzione da Anna Vitaliani e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.